I bambini di Ingleside. Durante il giorno ai bambini Blythe piaceva giocare tra il rigoglioso verde e le ombre del grande macchione di aceri che cresceva tra Ingleside e il laghetto di Glen St. Mary. Ma quando si approssimava la sera, nessun posto era più bello del piccolo avvallamento che si stendeva alle spalle degli alberi. Per loro era un vero e proprio reame da sogno. Una volta, guardando dalle finestre della soffitta di Ingleside, oltre la foschia lasciata da un temporale estivo, avevano visto quel posto così amato, sormontato da uno splendido arcobaleno, un'estremità del quale terminava proprio nel punto in cui il laghetto lambiva il lato più lontano della valle. Chiamiamola la valle dell'arcobaleno, aveva detto Walter, deliziato, e da allora quello era diventato il suo nome. Fuori dalla valle dell'arcobaleno il vento poteva anche soffiare turbolento e impetuoso, ma lì si tramutava in una dolce brezza. Piccoli sentieri fatati si snodavano tortuosi tra le radici degli abeti ricoperti di muschio. L'intera valle era costellata di ciliegi selvatici che nel periodo della fioritura diventavano di un bianco candido che risaltava contro i tronchi scuri degli abeti. Vi scorreva anche un ruscelletto dalle acque ambrate, che giungeva dal villaggio di Glen. Non c'erano costruzioni nelle vicinanze, solo un piccolo cottage deserto e abbandonato, all'estremità nord della vallata che tutti chiamavano la vecchia casa dei Bailey. Era disabitata da anni ed era circondata da un fossato ormai pieno d'erba, oltre il quale c'era un vecchio giardino, dove i bambini di Ingleside andavano a cercare violette, margherite e narcisi che ancora fiorivano ogni stagione. Per il resto, il giardino era invaso dal cumino dei prati che ondeggiava sotto il chiaro di luna estivo come un mare d'argento. A sud c'era invece il laghetto e al di là di quello l'orizzonte si perdeva nei boschi color porpora, tranne nel punto in cui una vecchia e solitaria casa di pietra sorgeva su un'alta collina a dominare il villaggio di Glen e il porto. La valle dell'arcobaleno aveva qualcosa di selvaggio, boschivo e solitario. Nonostante fosse vicinissima al paese che incantava i bambini di Ingleside, era anche piena di adorati e accoglienti avvallamenti, il più ampio dei quali era il loro terreno di gioco preferito. Ed era lì che si erano radunati quella sera nel mezzo di un macchione di giovani abeti, dove una radura erbosa si apriva proprio sulla riva del ruscello. Subito accanto all'acqua cresceva una giovane betulla argentea dal tronco incredibilmente dritto che Eva Walter aveva battezzato la Dama Bianca. Sempre nella stessa radura si trovavano gli alberi innamorati, così Walter aveva deciso di chiamare un abete e un acero cresciuti così vicini l'uno all'altro che i loro rami si erano inestricabilmente intrecciati. Jem ci aveva appeso una cordicella con delle vecchie campanelle da slitta regalategli dal fabbro di Glen, che a ogni spiffero di brezza facevano risuonare nell'aria un tintinnio fatato. Che gioia essere tornati, disse Nan. Ad Avonlea non c'è un posto bello come la valle dell'arcobaleno. Nonostante questo, i bambini adoravano Avonlea e le visite a Green Gables erano considerate un regalo speciale. Zia Marilla era sempre molto buona con loro, così come la signora Rachel Lynde, che aveva deciso di dedicare la sua vecchiaia a fare trapunte di cotone per quando le figlie di Anna si sarebbero sistemate, tra virgolette. Ad Avonlea c'erano anche tanti allegri compagni di giochi, ovvero i figli di zio Davy e di zia Diana, che conoscevano tutti i posti amati dalla loro mamma quando era ragazza a Green Gables, il viale degli innamorati, fiancheggiato da cespugli di rose selvatiche in fiore, il giardino sempre ordinatissimo, pieno di salici e pioppi, la sorgente delle driadi, luccicante e splendida come sempre, il lago lucente e lo stagno dei salici. Le gemelle dormivano nella vecchia stanza di Anna, nella mansarda, e spesso zia Marilla la sera si fermava a guardarle, incantata, quando credeva che dormissero, anche se tutti sapevano che il suo preferito era Jem. Proprio Jem, in quel momento, era occupato a friggere un mucchio di piccole trote che aveva pescato poco prima nel laghetto. Il suo fornello consisteva in un falò acceso dentro un cerchio di pietre rosse e i suoi utensili da cucina erano una vecchia lattina di stagno appiattita, martellata e un forchettone con un solo rebbio. Ma tanti pasti succulenti erano stati preparati in quel modo prima di allora. Gem era il figlio della casa dei sogni, tutti gli altri invece erano nati a Ingleside. Aveva i capelli ricci e rossi come quelli della madre e i limpidi occhi nocciola del padre. Da sua madre aveva preso anche il bel naso, mentre il sorriso sincero e allegro era quello di suo padre. Era anche l'unico membro della famiglia con le orecchie sufficientemente graziose da soddisfare i gusti di Susan, ma era in lite costante con lei, perché non la smetteva di chiamarlo piccolo Jem. Era un vero oltraggio, pensava il tredicenne. Sua mamma si era dimostrata senz'altro più ragionevole. Non sono più piccolo, mamma, aveva esclamato indignato il giorno del suo ottavo compleanno. Sono grandissimo. Sua madre aveva sospirato, poi aveva riso e infine aveva sospirato di nuovo. Ma da allora non lo aveva mai più chiamato piccolo Jem, almeno non in sua presenza. Jem era sempre stato un bambino testardo e leale, che non infrangeva mai una promessa. Non era un gran parlatore. E i suoi insegnanti non lo ritenevano particolarmente brillante. Anche se era un bravo studente, non si fidava mai di nulla a occhi chiusi, gli piaceva indagare da solo la verità di ciò che sentiva dire in giro. Una volta Susan gli aveva detto che se posava la lingua sul chiavistello coperto di ghiaccio se la sarebbe scorticata tutta. E Jem ci aveva provato immediatamente, solo per vedere se era vero. Aveva scoperto che lo era, pagando il prezzo di una lingua dolorante nei giorni successivi. Ma a lui non importava di soffrire per appagare le sue curiosità scientifiche. Osservando e sperimentando aveva imparato moltissimo. E i fratelli e le sorelle erano affascinati dalla sua profonda conoscenza del piccolo mondo che li circondava. Jem sapeva sempre da quale cespuglio sarebbero spuntate le prime bacche della stagione, in quale punto le violette si sarebbero risvegliate dal loro letargo invernale e quante uova azzurrine avrebbero trovato in uno qualsiasi dei nidi di petirosso del macchione di aceri. Era capace di predire il futuro con i petali delle margherite, di succhiare il miele dal trifoglio dei prati e di tirar fuori dalla terra, lungo le rive del laghetto, ogni sorta di radici commestibili, suscitando in Susan il quotidiano timore di vedere tutti i bambini avvelenati. Jem sapeva anche dove trovare la migliore resina di abete, in pallide gocce color ambra che punteggiavano la corteccia coperta di licheni. Dove era il punto della faggeta intorno a Harbor Head, in cui c'erano più noci, e in quale ruscello si pescavano più trote. Sapeva imitare il richiamo di tutti gli uccelli o gli animali di Four Winds e indicare il luogo esatto dove cresceva ogni singolo fiore selvatico, dalla primavera all'autunno. Walter Blythe era seduto sotto i rami della Dama Bianca con un libro di poesie accanto a sé, ma non stava leggendo. Il suo sguardo si posava alternativamente sulle chiome color smeraldo dei salici intorno al laghetto e sul mucchio di nuvole sospinte dal vento sopra la valle dell'arcobaleno, simili a un gregge di pecore dal manto argentato. I suoi occhi grandi e splendidi erano come rapiti. Walter aveva occhi davvero meravigliosi. Nel loro grigio profondo si riflettevano gioie, tristezze, risate, amicizie e aspirazioni appartenute alle generazioni venute prima di lui e da lungo tempo sepolte. Dal punto di vista dell'aspetto fisico, Walter era un'eccezione in famiglia, non assomigliava a nessun parente noto e con i suoi capelli neri e i lineamenti eleganti era il più bello di tutti i bambini di Ingleside. Aveva inoltre ereditato tutta la vivida immaginazione di sua madre, insieme al suo appassionato amore per la bellezza. Il gelo dell'inverno, l'aria invitante della primavera, i sogni dell'estate e il fascino dell'autunno erano cose importantissime per lui. A scuola Jem era un capo, Walter invece non era tenuto molto in considerazione. I compagni gli davano della femminuccia e del lattante perché non faceva mai a botte con nessuno e solo raramente partecipava alle attività sportive, preferendo ritirarsi in qualche angolino a leggere, in particolare libri di poesia. Adorava la poesia. E vi si era immerso da quando aveva imparato a leggere. La musica immortale dei poeti si era come intessuta alla sua anima man mano che cresceva, e Walter coltivava l'ambizione di diventare lui stesso un poeta un giorno. Sapeva che era possibile. Un certo zio Paul, così chiamato per motivi affettivi, che ora viveva in quel misterioso paese chiamato gli Stati Uniti, era il suo modello. Anni prima lo zio Paul non era che un allievo della piccola scuola di Avonlea. Adesso invece tutto il mondo leggeva le sue poesie. I ragazzi della scuola di Glenn erano all'oscuro di questo sogno di Walter. E anche se fossero venuti a saperlo, non se ne sarebbero stati granché impressionati. Tuttavia, Nonostante le sue scarse abilità fisiche, Walter suscitava un certo involontario rispetto per via della sua capacità di parlare come i libri. In tutta Glen St. Mary nessuno sapeva parlare come lui. Un ragazzino aveva addirittura detto che sembrava di ascoltare un pastore, e per quella ragione Walter veniva per lo più lasciato in pace, senza essere tormentato, come accadeva alla maggior parte dei ragazzini che non amavano oppure temevano l'idea di fare a botte. Le gemelle di Ingleside, di 10 anni, avevano violato la principale consuetudine dei gemelli e non si assomigliavano affatto. Anna, detta Nan, aveva occhi e capelli nocciole ed era molto graziosa. Era una ragazzina leggiadra e allegra di natura, come aveva detto una delle sue insegnanti, e con grande soddisfazione di sua madre aveva una carnagione perfetta. «Sono proprio felice che almeno una delle mie figlie possa vestirsi di rosa», diceva spesso la signora Blythe. Diana Blythe, chiamata Dee, assomigliava invece moltissimo a sua madre, da cui aveva preso i capelli rossi e gli occhi grigio-verdi, che soprattutto al tramonto si accendevano di una luce e di uno splendore particolari. Forse proprio per questo motivo era la preferita di suo padre, ma era anche molto legata a Walter. Era l'unica a cui lui leggeva i versi che componeva ed era anche l'unica a sapere che il fratello stava lavorando a un poema epico che assomigliava molto, benché non del tutto, al Marmion di Walter Scott. Dee custodiva tutti i segreti di lui, che non rivelava nemmeno a Nan, e confidava a Walter tutti i propri. «Ti manca molto con quei pesci, Jem?» chiese Nan, annusando l'aria con il suo grazioso nasino. «Il profumo mi fa venire fame». «Sono quasi pronti», disse Jem, voltandoli con una certa destrezza. «Tirate fuori il pane e i piatti, ragazze. Walter, è ora di svegliarsi». «Oh, l'aria risplende più del solito questa sera», disse lui con voce sognante. Non che disprezzasse la frittura di trote, anzi, ma il cibo dell'anima aveva sempre la precedenza. L'angelo dei fiori deve aver percorso tutta la terra, chiamando ogni bocciolo per nome. Riesco quasi a vedere le sue ali azzurre su quella collina vicino al bosco. Tutti gli angeli che ho visto io avevano le ali bianche, disse Nan. Oh, l'angelo dei fiori no, le sue ali sono color azzurro pallido, come la foschia che c'è sulla valle. Oh, quanto mi piacerebbe saper volare. Deve essere bellissimo. A volte succede nei sogni, disse Dee. Io non sogno esattamente di volare, disse Walter. In sogno però mi capita spesso di sollevarmi da terra e fluttuare nell'aria sopra steccati e alberi. È delizioso, mi viene sempre da pensare, questo non è un sogno come le altre volte, questa volta è reale. E poi mi sveglio ed è proprio triste. Sbrigati, Nan, disse Jem. Nan aveva tirato fuori la tavola delle feste, che era letteralmente una tavola sulla cui superficie di legno stagionato erano stati già consumati una gran quantità di banchetti. Era sufficiente appoggiarla su due grandi rocce coperte di muschio e coprirla con dei giornali che fungevano da tovaglia. Come stoviglie c'erano i piatti sbreccati e le tazze senza manico che Susan non usava più. Nan andò poi a prendere il pane e il sale, custoditi in una scatola di latta nascosta sotto le radici di un abete. L'acqua da bere, infine, era quella limpida e cristallina del ruscello, ma il condimento più importante era una certa salsa fatta di aria fresca e appetito giovanile, in grado di donare a qualsiasi cibo un gusto divino. Quel banchetto, a base di trote fritte e pane secco nella valle dell'arcobaleno, illuminato da un tramonto dorato e ametista, avvolto nel profumo degli abeti balsamici e degli alberi primaverili che crescevano tutto intorno, accarezzato dal vento e dal tintinnio delle campanelle tra le fronde ondeggianti, avrebbe fatto invidia anche ai grandi della terra. Sediamoci, disse Nan, mentre Jem metteva in tavola il vassoio di latta con le trote. È il tuo turno di dire la preghiera di benedizione, Jem. «Oh, ma io ho già fatto la mia parte con le trote», protestò Jem, che detestava recitare la preghiera. «Fallo fare a Walter, a lui piace. Però falla breve, Walter, sto morendo di fame». Walter però non ebbe modo di cimentarsi nella preghiera, lunga o corta che fosse, perché il banchetto fu interrotto prima di cominciare. «Ma chi è che sta arrivando dalla canonica?» disse Dee. «I ragazzi della canonica». Era in effetti vero che la zia Marta non fosse la più abile delle governanti di casa. Così come era vero che il reverendo John Knox Meredith fosse un uomo piuttosto distratto e incline a lasciar correre, ma era altrettanto vero che alla canonica di Glen St. Mary, nonostante il disordine, si respirasse un'adorabile aria di casa. Persino le casalinghe più critiche di Glen la sentivano e il loro giudizio ne era inconsciamente addolcito. Il fascino della canonica era forse dovuto in parte a elementi accidentali. Le rigogliose piante rampicanti che si intrecciavano l'un l'altra sulle pareti grigie rivestite di legno, le acace gentili e i pioppi balsamici che le si accalcavano intorno come fossero vecchi amici, e la bellissima vista sul porto e sulle dune di sabbia che si poteva godere dalle finestre della facciata. Ma tutte quelle cose c'erano già al tempo del predecessore del signor Meredith, quando la canonica era la casa più ordinata, pulita e noiosa di Glen. Perciò gran parte del merito doveva essere attribuito alla personalità dei nuovi inquilini. C'era sempre un'atmosfera allegra e cameratesca. La porta era sempre aperta e il mondo all'interno della casa stringeva la mano a quello di fuori. L'unica legge in vigore nella canonica di Glen St. Mary era quella dell'amore. I membri della sua congregazione dicevano che il signor Meredith viziava i suoi figli e questo era senz'altro vero. Di certo non sopportava l'idea di sgridarli. Oh, non hanno più la mamma, diceva a se stesso con un sospiro, quando qualche peccatuccio commesso da qualcuno di loro spiccava talmente tanto da riuscire a imporsi alla sua attenzione. La verità era che non aveva idea di cosa facessero per la metà del tempo. Il signor Meredith apparteneva alla stirpe dei sognatori. Le finestre del suo studio affacciavano sul cimitero, mentre lui camminava avanti e indietro, immerso in profonde riflessioni sull'immortalità dell'anima, non si accorgeva minimamente che Jerry e Carl stavano allegramente giocando alla cavallina sopra le lapidi di diversi metodisti defunti. A dir la verità, ogni tanto il signor Meredith si rendeva conto per qualche intenso istante che da quando sua moglie era morta nessuno aveva più badato in maniera appropriata ai bisogni fisici e morali dei suoi figli. E che la gestione della casa e dei pasti da parte della zia Marta era decisamente differente da quella della sua Cecilia. Ma per la maggior parte del tempo viveva in un mondo fatto di libri e astrazioni. Pertanto, sebbene i suoi abiti venissero raramente spazzolati e le casalinghe di Glen avessero dedotto dal pallore dei suoi lineamenti eleganti e delle sue mani snelle che non mangiava abbastanza, non era comunque un uomo infelice. Semmai un cimitero può essere descritto come un posto allegro, e questa definizione si addiceva perfettamente al vecchio cimitero metodista di Glen St. Mary. Il nuovo camposanto, dall'altro lato della chiesa metodista, era un luogo curato, dignitoso e dolente. Quello vecchio, invece, dopo essere rimasto a lungo nelle mani gentili e premurose della natura, era diventato un angolino davvero piacevole. Era circondato su tre lati da un fossato di pietre e terriccio, con in cima una recinzione di pali grigi e sbilenchi. Di fianco vi cresceva una fila di alti abeti dai rami forti e profumati. Il fossato, costruito dai primissimi abitanti di Glen, era abbastanza profondo da risultare bello. Muschio e altra vegetazione spuntavano fuori dalle crepe. Nei primi giorni di primavera il fondo si riempiva di violette, mentre in autunno astere e solidago si affacciavano gloriosi a ogni angolo. A far compagnia a tutto questo, tra le pietre crescevano ciuffi di felci e qua e là qualche pianta più grande. Sul lato est non c'era recinzione né fossato. In quel punto il confine del cimitero era segnato da un giovane macchione di abeti che si faceva man mano sempre più vicino alle tombe e si allargava verso est, trasformandosi in una folta foresta. Nell'aria si udivano costantemente la voce armoniosa del mare e la musica degli antichi alberi grigi, e nelle mattinate di primavera i cori degli uccelli sui rami degli alberi, tra le due chiese, cantavano di vita e non di morte. I bambini Meredith adoravano quel vecchio cimitero. Edera dei fiori azzurri, pini, nani e menta proliferavano sulle tombe sprofondate nella terra. Cespugli di mirtilli crescevano rigogliosi negli angolini sabbiosi accanto alla foresta di abeti. Si poteva inoltre osservare la trasformazione delle tombe nel corso di tre generazioni, dalle lapidi piatte oblunghe di arenaria rossa dei primi coloni alle statue di salici piangenti e mani giunte in preghiera fino alle più recenti e mostruose tombe monumentali e alle urne di pietra coperte da drappi. A quest'ultima tipologia apparteneva la tomba più grande e più brutta dell'intero cimitero, consacrata alla memoria di tale Alec Davis, nato metodista, che aveva tuttavia sposato una presbiteriana del clan Douglas. Era stata lei a farlo diventare a sua volta presbiteriano e a farcelo rimanere per tutta la vita. Quando era morto, però, non se l'era sentita di condannarlo a una tomba solitaria nel cimitero presbiteriano dall'altra parte della baia. La sua famiglia era tutta sepolta nel cimitero metodista e da morto Alec Davis si era ricongiunto con loro. Sua moglie si era consolata erigendo per lui un costosissimo monumento che nessun metodista avrebbe mai potuto permettersi. I bambini Meredith l'odiavano senza sapere bene perché, ma apprezzavano gli ampi gradini piatti circondati dall'erba alta che fungevano egregiamente da panchine. In quel momento erano seduti proprio lì. Jerry si era stufato della cavallina e stava suonando uno scacciapensieri. Carl era chino a osservare uno strano insetto che aveva appena scoperto. Una stava tentando di fare un vestito per la sua bambola e Faith, appoggiata all'indietro sui gomiti abbronzati, agitava i piedi nudi a tempo con lo scacciapensieri. Jerry aveva i capelli neri e i grandi occhi scuri del padre, con la differenza che i suoi erano sempre vigili invece che sognanti. Faith, accanto a lui, vestiva la propria bellezza come una rosa radiosa e noncurante. Aveva occhi e capelli color castano dorato e le guance rosse. Rideva un po' troppo per i gusti della congregazione di suo padre e aveva scandalizzato la vecchia signora Taylor, inconsolabile sposa di diversi defunti mariti, dichiarando che, e per di più proprio davanti alla chiesa, il mondo non è una valle di lacrime, signora Taylor, è un mondo di risate. Invece, la piccola Una, dall'aria sognante, non rideva spesso. I suoi capelli scuri e lisci non lasciavano presagire alcuna bizzarria di carattere e gli occhi a mandorla di un azzurro profondo avevano qualcosa di nostalgico e dolente. Aveva un modo tutto suo di schiudere le labbra, mostrando i dentini bianchi, e ogni tanto un sorriso timido e pensoso si affacciava sul suo visetto. Agli occhi della gente dimostrava molto più buonsenso di Faith e aveva la vaga cognizione che ci fosse qualcosa di strano nel modo in cui vivevano. Le sarebbe piaciuto porvi rimedio, ma non sapeva davvero come. Ogni tanto si metteva in testa di spolverare i mobili, ma spesso non riusciva nemmeno a trovare il piumino per la polvere, che non era mai nello stesso posto. Di sabato, se per caso le capitava sotto mano la spazzola, tentava di rassettare l'abito buono del padre e una volta gli aveva persino riattaccato un bottone. Usando però dello spago bianco, quando il signor Meredith si era presentato in chiesa il giorno seguente, lo sguardo di tutte le donne presenti si era posato su quel bottone e la società di mutuo soccorso era stata in agitazione per settimane. Carl aveva i limpidi e luminosi occhi blu della madre, spavaldi e penetranti. I suoi capelli castani dai riflessi dorati. Conosceva tutti i segreti degli insetti, aveva una sorta di intesa segreta con api e scarabei. Una aveva sempre timore a stargli vicino, perché non si poteva mai sapere a quale strana creatura si stesse accompagnando. Jerry non voleva dormire con lui, perché una volta si era portato una biscia sotto le coperte. Perciò Carl dormiva nel suo vecchio lettino, così corto che non poteva nemmeno stendere bene le gambe e aveva delle curiose compagnie notturne. Il fatto che la zia Marta fosse mezza cieca era una vera benedizione quando doveva rifare quel letto. I bambini formavano un gruppetto allegro e adorabile e Cecilia Meredith doveva aver sofferto amaramente quando aveva realizzato di doverli lasciare. «Dove vorreste essere seppelliti se foste metodisti?» chiese Faith di punto in bianco, aprendo un'interessante discussione. «Non è che ci sia molta scelta. Questo posto è già pienissimo», rispose Jerry. «Mi piace quell'angolino vicino alla strada. Da lì potrei sentire le chiacchiere della gente che passa». «Oh, a me piace quella piccola conca sotto la betulla bianca», disse una. «È il posto preferito degli uccelli. Di mattina li senti cinguettare come matti». «Io sceglierei il lotto dei porter, Perché ci sono sepolti un sacco di bambini e a me piace la compagnia, disse Fate. E tu, Carla? Io preferirei non essere sepolto, rispose Carla. Ma se proprio dovessi, mi piacerebbe stare nel formicaio. Le formiche sono animali interessantissimi. Tutti quelli sepolti qui erano bravissime persone, disse una che aveva letto diversi epitaffi elogiativi. Non c'è nemmeno un cattivo in tutto il cimitero. Forse è vero che i metodisti sono migliori dei presbiteriani. Forse invece i metodisti seppelliscono le persone cattive come si fa con i gatti, suggerì Carla. Non si prendono il disturbo di portarli al cimitero. Sciocchezze, disse Faith. La gente sepolta qui non era migliore degli altri. Una. È solo che quando qualcuno muore bisogna parlarne bene, altrimenti torna a perseguitarti. Me l'ha detto zia Marta. Ho chiesto a papà se era vero e lui mi ha guardata, ma senza vedermi davvero, e ha borbottato: vero? Se è vero, che cos'è la verità? O beffardo Pilato? Da qui sono giunta alla conclusione che deve essere vero. Chissà se il signor Alec Davis tornerebbe a perseguitarmi se lanciassi un sasso a quell'urna in cima alla sua tomba, disse Jerry. Oh, di sicuro lo farebbe la signora Davis, ridacchiò Faith. In chiesa ci guarda sempre come un gatto che sorveglia dei topi. Domenica scorsa ho fatto una boccaccia a suo nipote, che ha ricambiato, e avreste dovuto vedere come l'ha guardato lei. Sono sicura che quando sono usciti gli ha dato un bel ceffone. Meno male che la moglie di Marshall Elliott mi ha detto che non dobbiamo offenderla per nessun motivo, altrimenti avrei fatto una boccaccia anche a lei. Dicono che una volta Jem Blythe le ha fatto la linguaccia e lei non ha mai più chiamato suo padre, nemmeno quando suo marito stava morendo, disse Jerry. Chissà che tipi sono quei Blythe. Hanno un'aria che mi piace, disse Faith. I bambini della canonica erano alla stazione quando i piccoli Blythe erano arrivati, soprattutto Jem. A scuola dicono che Walter è una femminuccia, disse Jerry. Oh, io non ci credo, disse una. Trovava che Walter fosse bellissimo. Però scrive poesie. L'anno scorso ha vinto il premio per la migliore poesia messo in palio dall'insegnante. Me l'ha detto Bertie Shakespeare Drew. La madre di Bertie pensa che avrebbero dovuto darlo a lui, per via del suo nome, ma Bertie sostiene di non essere proprio capace di scrivere poesie, nome o non nome. Beh, immagino che li conosceremo meglio quando ricominceranno ad andare a scuola, concluse Faith. Speriamo che le ragazze siano simpatiche. La maggior parte delle ragazze di qui non è granché. Anche quelle gentili sono abbastanza noiose. Le gemelle Blythe, al contrario, mi sono sembrate dei bei tipi. Però pensavo che i gemelli si assomigliassero sempre, loro invece no. Mi sa che quella con i capelli rossi mi piace di più. A me piace la loro mamma, disse una con un sospiro. Invidiava sempre le madri degli altri bambini. Aveva solo 6 anni quando la sua era morta e i preziosi ricordi delle coccole al tramonto, dei giochi mattutini, degli occhi amorevoli e della voce affettuosa e della sua risata dolce e allegra erano impressi nella sua anima e custoditi come gioielli. Dicono che è diversa dalla gente normale, disse Jerry. La signora Elliot dice che è perché non è mai cresciuta davvero, disse Faith. Ma sei più alta di lei. Sì, lei intende cresciuta dentro. Secondo la signora Elliot, la signora Blythe è rimasta una ragazzina dentro. Ma che cos'è questo odore? L'interruppe Carla annusando l'aria. Un attimo dopo lo sentirono tutti, un profumino delizioso che aleggiava nell'aria calma della sera e proveniva dalla valle boscosa ai piedi della canonica. Mi fa venire fame, disse Jerry. A pranzo abbiamo mangiato solo pane e melassa. E il solito a cena freddo, si lamentò una. La zia Marta metteva sempre a bollire una gran quantità di carne di montone a inizio settimana, per poi servirla fredda e unta per tutti i giorni seguenti, finché durava. In un momento di ispirazione, Faith aveva battezzato quel piatto il solito, e da allora così veniva chiamato alla canonica. Andiamo a vedere da dove arriva questo odorino, disse Jerry. Balzarono tutti in piedi e corsero sul prato con lo slancio di una muta di giovani cuccioli. Scavalcarono la recinzione e si lanciarono giù per il pendio muschioso, guidati dal delizioso profumino che si faceva sempre più forte. Pochi minuti dopo giunsero senza fiato nel cuore della valle dell'arcobaleno, dove i bambini Blythe stavano per recitare la preghiera di benedizione e mettersi a mangiare. A quel punto i Meredith si fermarono intimoriti. Una desiderò non essere stata così precipitosa, ma Dee Blight prese in mano la situazione, come aveva già fatto altre volte, e si fece avanti con un sorriso amichevole. «Credo di sapere chi siete voi», disse. «Abitate alla canonica, vero?» Faith annuì il volto punteggiato di fossette.